20 numeri 1 e i numeri 2 sanno che va ora in onda Mi strastretto lo stivale. Conducono Parisi, Cremona, Strazzullo, Radio 2010. E se noi chiamiamo in Champions League, a Coppa UEFA, pure è fatto bene. Buongiorno, prova a parlare adesso, ti sfido. Lasciami fare l'intro. Sempre il solito Lompi. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera, Riccardo Cremona. Da Alessio Strazzullo, ciao, siamo quasi ad ora di cena ormai. Mi sta stretto lo stivale Radio 2010. Tu l'intro non vuoi farmelo fare? No, oggi no. Come va? Tutto a posto? Io sto benissimo, una bomba. Tu invece, io secondo me, oggi sei anche un po' rompipalle oggi, te lo voglio ma dire. Ma sì, sono un po'. Sì, stasera un sì, po'. Sì, sei una vecchia pettegola. Allora, innanzitutto salutiamo la regia, il nostro mitico DJ, Corrado Parisi in regia. Ciao Corrado, come stai? Buonasera! Sta sempre benissimo, la cosa grande. Mi rallegra il cuore. Prima di incominciare dobbiamo fare un tributo, sì, perché purtroppo in settimana è deceduto un mito, un'icona della televisione italiana, Rai 1 soprattutto, il programma televisivo che l'ha portato in auge è stato 90esimo minuto, il programma del calcio, e stiamo parlando di Tonino Carino. Ah, il grande Tonino Carino. Il grande Tonino, quindi facciamo 16 secondi di tributo per lui, vai. Ciao Tonino, quindi da Radio 2010. Ciao Tonino, questa sigla è bellissima, mi apre il cuore. Meravigliosa. Che mi dici? Sai che oggi qui abbiamo un ospite importante. Oggi puntata particolare. Non lo sentivamo da qualche mese, l'abbiamo invitato un po' di tempo fa e poi non è venuto ci più. Ci fece la poesia intro di una nostra puntata. Stiamo parlando di un personaggio serio. Più serio che non si può. Di un grande poeta. Un grande poeta. E anche di un grande chiavico. Anche un grande, lui così si definisce, poeta e chiavico. Tony Mondiale. Tony Mondiale. Ciao, Tony, come stai? Ciao ragazzi, tutto a posto, tutto bene. Ah, che piacere. Un saluto, posso fare Prego. Un saluto a tutta la fascia d'ascolto di questa radio che è bella e moda. È già moda. È considerata moda. Alessio, sei considerata moda. Io no, siete considerati moda. Io quando lo ascolto mi sciolgo. Come no, tutte le femminucce 14 anni. Una voce calda. Io ti ringrazio. Un vero poeta. Sei carnale. La carnalità è sempre una cosa basilare. Come avete capito, la puntata avrà tutta un'altra struttura oggi. Sì. Però mi piace. No, per amore Dio. Per amore Dio, mi sembra giusto. L'accento mi sembra Bergamo, se non no, sbaglio. No, siamo della Val Brembana, proprio di famiglia. Io dicevo, infatti, tutti, da generazioni. Sì. Siete anche dalla buonanima del nonno. La capigliatura bionda e lunga. Ma certamente. L'impero di Savoia. No. Il regno di Savoia. A proposito di Savoia, dopo ne parleremo. Senz'altro. Perché questi Savoia non se ne vogliono andare, soprattutto uno... ci a rompere le palle qua in Italia. Diciamo che sono molto dediti al ritorno. Ma che ne rimane, dove state? Cioè, stanno in Svizzera, chi se ne frega? Prima partiamo notizia. Subito. Allora, la notizia si intitola Piercing nei bagni della scuola. Voi direte, ma com'è possibile piercing nei bagni della scuola? E invece è successo. Siamo a Rivoli, Torino, in un istituto tecnico commerciale Romero, leggo meglio. Che è successo? No, tu vai in bagno e c'è una fila lunghissima, non si capisce perché. C'è una fila, un sacco di donne in fila, non si capisce quale motivo. Vabbè, qualcuno, sai, i bisogni di donne. No, nel bagno c'era un gruppo di ragazze che facevano piercing così a gratis alle persone. Così? Ma come? Così. Come? Usavano un ago canula, simile a quello che si utilizza per i prelievi, sterilizzato con una tecnica di altissima qualità, la fiamma dell'accendino. Come quando ti cade la sigaretta a terra e ci passi un attimo la fiamma per dire non voglio buttare questi 5 centesimi. Allora, io voglio dire una cosa, non funziona. Cioè, no, infatti no. Soprattutto se devi usare un ago a cannula che devi ficcare in ombelichi, sopracciglia, labbro, capezzoli, perché poi c'è anche chi piace il piercing sul capezzolo. Hai usato una serie di parole pericolosissime. Da... Lo so. E comunque usavano, va in bagno, trova la ragazza con un accendino, poi si fa una sigaretta, no, che fa, sterilizza una caccanole e vai, tu ti ritrovi con il piercing. Quindi tu entri nel bagno così e ti ritrovi borchiato. Però veloce. No, sì, però un'operazione senza quella paura del piercing. Vabbè, ormai i ragazzi non hanno paura più di niente, cioè, questa è l'idea. A me cioè, il piercing fa un po' di... Il piercing. Scusa, sono molto raffreddato. Poliglotta. No, il piercing fa un po' impressione. Io ho un piercing e non è niente di particolare. Certo, non ve lo farei mai nei bagni di una scuola fatto da qualche ragazza, perché sarebbe una cosa improponibile. Però dall'altro la cosa bella è che l'istituto non ha preso nessun provvedimento. Farà semplicemente un cartello che dice niente piercing. No, farà un discorso nel quale spiegherà la pericolosità di fare delle cose del genere. È assurdo, perché secondo me dei provvedimenti vanno presi. Cioè, queste ragazze stanno fuori di testa. Oltre a insegnargli che non si può fare un'operazione del genere in un bagno, che già non è il massimo dell'igiene, poi a scuola, cioè, senza, c'è bisogno di un'autorizzazione, qualcosa. Tu non hai piercing, il nostro rimondiale, cosa ne pensi dei piercing? Questi piercing sono un fatto di moda che si porta molto in questo periodo. Dipende, bisogna fare con attenzione. Un fatto igienico, ecco. Uno piglia e fa un piercing in un bagno dove uno poi dopo ne va nel bagno, fa le cose sue nel bagno. Inevitabilmente ci si tocca, diciamo, negli ambiti più intimi del corpo, che una sciacquata di mano, sì, vabbè, ma lo sai tu che te la fai, io che non ti vedo, non lo so, tu mi vieni a fare questi chiovi in mi sembra giusto, è una cosa che va fatta con un attimino di attenzione. Comunque, arrivo lì a Torino, fanno i piercing nelle scuole. Noi forse anche ai macellai. Chissà se ci guadagnava sopra. Però posso dire c'è scritto di no. Ci facciamo una gratis. Prego, a prego. Confronto di tante cose male che fanno qua da noi, nelle scuole. Noi fanno i cappottoni nelle scuole, mazzate nelle scuole, le rapine, i piercing è una cosa anche buona. Sì, secondo me questo... Però il cappottone è il suo fascino. Ah, certamente. Siamo l'amicizia, tutti cresciuti a cappottoni. Anche il salasso. Il salasso no. Io salassi non ne ho mai subito. Non neanche io, ringraziando Dio. Però ne ho visto qualcuno. Vabbè, comunque, secondo me, a prescindere, è vero che qua facciamo di peggio, però in generale nel bagno si deve solo andare a pisciare, scusate il termine, sì, basta. Tra l'altro il nostro ospite è una persona che utilizza comunque un linguaggio molto molto urbano anche, quindi, io infatti, cioè, pisciata lo possiamo pisciata, per amor di quella italiana, pisciata. Come no, italiana. Orinata. La Treccani alla piccia pisciata, certo. Sinonimo urinare. Non l'opposto. Produrre urina. Non espellerla, no, Sto per vomitare. Va bene, andiamo avanti. Cosa mi racconti tu? Altra notizia riguarda l'Istria e l'antifascismo. Riprendiamoci l'Istria. Allora, innanzitutto, Corriere della Sera, giornale serio. Infatti la notizia viene riportata abbastanza seriamente. A Pola, che è in Croazia, ecco, in un supermercato viene venduto un grembiule con il duce e il tricolore. Allora, c'è la faccia del duce, del duce. Dietro c'è un tricolore e c'è scritto Benito Mussolini, statista. Ah sì. Con le date di nascita e morte. Cioè io posso andrò se vado a Pola. Sì. Esco fuori, vado fuori a una scuola elementare, anzi un asilo, sì, e poi mi ritrovo questi 20 bambini. E poi ti fai la polenta, poi ti fai la polenta con il... No, torni a casa, la polenta, il cibo, no? Ti cucini il cibo con... Ma che c'entra? Stavo dicendo un'altra cosa. Ho capito, però qua c'è un... Stiamo parlando di un grembiule, un grembiule da cucina, no? Il grembiulino. Mi sono confuso. Quindi vado a Pola, vado a farmi la polenta, come dici tu, e mi ritrovo con... Ah, che bello. No, è un... Il fascismo in cucina. Sì. Toni Mondiale di Mussolini, che cosa... Ma guardate, onestamente mi ricordo... Noi siamo cresciuti in casa nostra con... Le mamme che cucinavano questi pasta e fagiolo bello torto in una, con i grembiuli di cucina di una volta, quello là quadrettone con i fiori che si sporcava di salsa, sugo e cose che non si lavava mai. Non torniamo si lavava. Un po' a queste cose un po' genuine, autentiche. Alla fine queste sono tutte cose per vendere, trovate di mercato. Sì. Ma quindi vuol dire che a Pola c'è qualche... A Pola, sa Istria, scusate, ma dove si trovano? L'Istria era nostra un tempo, poi è diventata croata. Cioè, chi ce l'hanno venduti? I cinesi pure? No, lui. È croati. Quindi queste casalinghe a Pola, gli piacerà questa cosa? Cioè, io mi chiedo se a Pola ci sono casalinghe che gli piace avere... Il mandesino... così. Il mantesino. Mantesino, non so il che mantesino mussoliniano. Mantesino mussoliniano, sarà considerato moda lì. Lì sarà considerato moda. Moda è ovunque, anche Mussolini fa moda. Tony, lo sai chi è Angelo? Posso darti del tu. Ma per l'amor di Dio, okay. Per quanto ti voglio bene e ti stimo tranquillamente. Conosci Angelo Izzo? No, chi è? Angelo dove se la fa? No, no, del Rione qua non si è stato, è stato per un po' di anni in carcere. Ah, 40. Azzo. Legato alla vicenda del massacro del Circeo. Il mostro del Circeo. Sì, ha ucciso un po' di persone. Ma fa piacere. Donne, in particolare. Donne, sì. Una brava persona, insomma, sì, persona per bene. Sì, no, la cosa incredibile è che ha trovato chi se l'è sposato. E chi lo voglio dice, va bene mia mamma, tutto quanto, prima o poi trovano il chiocchero. Che in questo caso è una chiocchera. Una chiocchera, tutti quanti trovano la loro via sentimentale, diciamo, che si sposano. Si pure è sposato, i più fetenti, infatti, come... con Donatella Papi. Sì. Tra l'altro si è sposato nel carcere di Velletri, in provincia di Roma, dove è detenuto. Certamente. Lo sposo, quindi... sai che cerimonia romantica nel carcere. Angelo Izzo sta scontando due ergastoli. Uno per i fatti del Circeo e l'altro per il duplice omicidio di madre e figlia commesso nel 2005 a Ferrazzano, a Campobasso. Esatto, ha ucciso un altro paio di persone. Ah, ho capito, buono. L'hanno fatto uscire perché... Beh, ma è certo, perché aveva funzionato, sai, la riabilitazione, lui ha fatto fuori altri due. La cosa incredibile è che lei ha detto, ho sposato l'uomo che amavo da sempre. Lui e ha quando l'ha vista? Quando l'ha conosciuta? Ma penso si siano conosciuti in carcere. Ah, quindi una detenuta? No, andava a trovarlo, sai, quelle donne sono affascinate. Che portano le arance, vabbè. Certo. La donna lo aspettava da tutta una vita. Ma come si può al suo bello mobile. Come si può aspettare da tutta la vita un assassino? Non lo so. Sai che bello è dice, e appunto lei dice: Angelo è un uomo con un enorme patrimonio spirituale. È dotato di un autentico codice sentimentale. Che ha alle spalle una grave situazione. Ma non per questo non ha il diritto di sposarsi. Quindi, il fatto che non ha il diritto di sposarsi. Siete senza parole proprio. No, perché lui è vero. Purtroppo, ha il ragazzi, diritto, fondamentalmente, prego. Io penso, io sono un poeta, poeta anche poeta del sentimento, inevitabilmente. Sì. Il sentimento non ha, come si dice, il cuore, l'amore è cieco. Purtroppo, ecco qua, ci troviamo di fronte a casi del genere che una persona. Ma infatti, a me non mi stupisce. Ma si può vedere una foto di costui? Di questa sì, sera? Aspetta. Guarda che faccia pulita. È pure brutta, abbiate bontà, con tutto il cuore, ve lo devo dire. Che non faccia da bravo uomo. Vabbè, lei non è una. Non la... Però non parliamo però siamo male delle donne. No, per... Noi siamo delle persone delle veramente per bene. Siamo. Le donne non si parlano, donne non si parlano male nemmeno con un fiore. No. E quindi comunque, perciò non... È impensabile questa cosa. Cioè, il matrimonio dentro il carcere. Sai che romanticismo, il lancio del bouquet. Qualcuno che comunque... canta sicuro l'hanno trovato. Sì. Letizia Lopez, che è la sorella di Rosaria Lopez, una vittima del massacro del Circeo, ha detto che la ucciderà sicuramente. Probabile. Allora, secondo me, questa signora tiene in faccia qualche proprietà. No. Non è possibile una cosa. No, perché lui non è calcolatore, lui è proprio maniaco omicida e basta, finisce lì. Cioè, la cosa mi faceva allora, pazzo. Allora, qua i pazzi sono due. La signora che bravo. Sta sposata. Bravo, perché la cosa mi faceva pazzo non è che lui non ha il diritto di sposarsi. No, per carità. Ma dovrebbero starci donne intelligenti da dire non mi posso sposare con uno che è stato condannato per aver fatto un massacro del Circeo, poi è uscito e ne ha ammazzato altre due. Cioè, ci vuole un po' di fiducia in un rapporto. Certamente. Ma qua ce ne va assai. Parecchio. Ogni tanto c'è il napoletano, basta, ma forse basta che c'è l'amore. Noi ci stiamo facendo troppi problemi. Basta che c'è l'amore e ci sta tutto. L'amore supera anche e magari anche una pistola sul comodino. Anche quello, non sono cose che sai, non... così dice, l'amore sicuro. Quando uno si ama i difetti non si vedono. Io ho sempre pensato l'amore anche ai pluri omicida, diciamo così. Un difetto può essere anche un precedente penale. Dal Circeo ci spostiamo dove? A Castel Volturno. Ecco qua lo mezzo volessi sapere. Qualche corriere della CTP. Bravo, qualche... quei pullman blu. L'M1 di 1Z3. Mamma mia, uno di quei posti terribili. Allora, ci spostiamo a Castel Volturno, provincia di Caserta. Allora, che succede? Se tu cammini per Castel Volturno mentre stai andando in macchina, già Castel Volturno diciamo che non è la culla della civiltà. No, però... Una ridente località, se ecco, mi permetti. Diciamo così, tu cammini per Castel Volturno, ti giri sulla destra e trovi carcasse di bufali morti così. Spazio, cioè uno si... bravo, come spazio nel Far West, balla, cioè, coi lupi, balla con i lupi che c'hanno quelle carcasse, e quella dalle parti di Castelvolturno c'è anche Grumo Nevada. Che un luogo, che un luogo, sì, dall'altro Castelvolturno è dove si allena il Napoli, ricordiamo. Che aria, perché ci ispirano questi nostri giocatori, perciò certi risultati non stentano a venire. L'aria tossica è normale, tutti bufano a infracetare che stanno là, non è una cosa che fa bene, insomma, a infracetare. Comunque, ci sono stati trovati questi bufali perché morti. Praticamente morti, tutti morti, tutti morti. La moria, la famosa moria delle vacche, delle vacche. Ma perché questo? Perché praticamente gli allevatori, quando i vitelli sono maschi, non servono a niente, neanche per produrre il latte, li prendono. Manca per fare due polpette, un hamburger. No, niente. Sai, allevatori, infatti sì, mi trovo pienamente d'accordo. Li prendono e li buttano. Dove li buttiamo? A Castelvolturno. A Castelvolturno. Certamente. Mi sembra giusto. E tu cammini per la strada e trovi questo cimitero di bufali così piacevole. No? Tu sei venuto alta faccia, vedi il mare, vedi la campagna, quella napoletana, la tundra napoletana, invece ti ritrovi. Non ho capito, scusa. La tundra. La tundra. La tundra è un tipo di foresta. In campagna non esiste, è in russa. Però la tundra, invece ti ritrovi bufali così, morti, come nel Nevada. Come, come a Grumo Nevada. Con le frecce. Mamma mia. Cioè, che frecce. Siamo così capaci di fare monnezza pur dei bufali. Dei bufali. Sembra una cosa incredibile. Come che non sono biodegradabili, mi sembra. Ma sono infracetabili. Bravo, bravo. capo a 100 anni. Bravo, infatti. Come nel Far West, un giorno, un domani. Noi quante volte giocavamo a indiani e cowboy? Sempre. E non là invece un gioco. Attenzione, un domani sondaggio. Un bambino. Sondaggio. Indiano o cowboy? Che facevi tu da piccolo? Indiano. Tu? Cowboy. Cowboy pure io. Vedi, c'è qualcosa che non va in te. Perché già ero dico, nella fase mistica. Sì, già facevi lo spirituale. I bambini giocheranno e troveranno una capa di morte di bufalo che e farà così, anche il suo. Avrà il suo perché, certamente. La scenografia naturale, come uno gioca ai bambini, pam pam, pistola e trovi il bufalo morto. Però a 100 anni che si è infracciato il bufalo. Vabbè. Prima, secondo me ci sta solo una grandissima puzza di quella di sicuramente morte. Sì, di morte, sì, sì, proprio anche all'occhio, comunque. Mamma mia. Bellissima notizia. Comunque bisogna fare presente alla dirigenza domani del Napoli questa cosa, perché abbiamo ancora un campionato da fare e non un girone di ritorno da fare. Non mi sembra il caso che poi si intrizziscono, camminano da questi bufali. No, ma per carità, ma poi la puzza proprio si crea una deficienza a livello polmonare in questi giocatori, poi perciò non ce la fanno a correre, ecco. Allora, passiamo alla notizia più divertente, questa secondo me è la più bella della giornata. Sì. Allora, sì, stiamo parlando del ricottaro per eccellenza. Sì. Quello il quale si descrive come il miglior imprenditore di sempre. Chi è? Lapo Elka. Non c'era arrivato, di la verità. No, posso perché fare un inciso? Sì, certo, si dice alle mie parti quando uno fa un nome di rilievo. Tietie. Tietie, infatti. Lapo Elka, l'ossigenata della famiglia Agnelli. Che è successo? Lui naturalmente viaggia per il mondo, ovviamente si trovava a Los Angeles. Sì. Los Angeles, nel corso di una partita di basket dell'NBA fra Los Angeles Lakers e i Toronto Raptors. Sì. Che tra l'altro ricordiamo militano due italiani ai, okay, Toronto Raptors. Che succede? Partita tiratissima, punto a punto. Allora, una palla vagante sta per uscire fuori. Voi sapete che un giocatore di basket, se la palla sta per uscire fuori, lui può anche salvarla lanciandosi, prendendola, basta che non tocchi per terra. Che fa? Un giocatore di basket, Calderon, che ha un nome anche... Giocava con Napoli? No. Ah, no. È un giocatore di basket spagnolo. Meno che male fa? Che non è sempre lui. Bravo, perché però c'era forse con le mani va meglio. Ma chi non mi fate parlare, che Calderon. Poi dopo... esattamente. Una delle sole più assurde che abbiamo mai preso. E comunque Calderon, giocatore dei Raptors, si fionda sulla palla per prenderla. Poteva prenderla benissimo. E chi c'è seduto in prima fila con la bella chioma bionda? Quel cretino. Quel cretino di Lapo Elkan. E che fa Lapo Elkan? Prende la palla. Lui no. Tocca la palla. Palla persa. No. E tra l'altro questa cosa non è che è il giochino, beh, non succede niente. I Raptors hanno perso di un punto. No. Quindi quella lui ha fatto la figura del cioccolataio. Tra l'altro non è nuovo a queste figure dei cioccolatai, diciamo così. E ho detto, scusate ragazzi, cioè, ha fatto una figura di merda negli Stati Uniti. Bravissimo, Lapo Elkan, descritto io nel New York Times, ho letto playboy e imprenditore italiano. No. Cioè, tu ti immagini, tra l'altro c'è un video bellissimo, andate a vederlo su Repubblica.it, anche il Corriere lo fa vedere. Ma, Tony, secondo te che succede se un giorno di questi Lapo Elkan blocca una palla a bordo campo durante una partita del Magico Napoli? Questa è una bella domanda. Sicuramente Mazzarri lo picchia, sicuramente. Ma quello sta come un pazzo a bordo campo, non tollererebbe mai. Ma tra l'altro lui ha rischiato di essere picchiato. Ma poi perché dobbiamo sempre peggiorare? Da Calderon, che non sia mai viene pure sulla poi il canna a bordo campo. Non sia mai. Proprio ne andiamo a perdere proprio, mamma. No, non sia mai. Cioè, tra l'altro lui ha rischiato di essere picchiato perché Calderon ha detto che cosa voleva fare. Giustamente, cosa voleva fare? Cioè, non si capisce. Lui si è alzato appositamente per toccare. Dobbiamo sempre far riconoscere. Sì, proprio le figure proprio brutte. Vabbè, ma penso che lo diffidano, no? La Poelkan. Dai campi di basket, no? Bravo la Poelkan, bravo la Poelkan. Così si fa, bravo. Bella figura, come al solito. Allora, andiamo negli Stati Uniti, perché non c'è nessun motivo per andare negli Stati Uniti. Ma stavamo già ad ottobre. Sì, però la Poelkan è italiano. Giusto. Quindi c'era un riferimento. Stavamo a Los Angeles. Questa però è una notizia carina, New York. In un importantissimo negozio famosissimo vendono a metà prezzo le Barbie nere rispetto alle Barbie bianche. Perché? Ah. Perché? Perché non si vendono queste Barbie nere. La gente non le vende e hanno bisogno di fare spazio per inserire altre Barbie bianche. Ma questa ha un retrofondo razzista questa cosa, mi sembra. Non lo so. Secondo lei Tony Mondiale si può applicare al commercio I saldi delle Barbie nere? E che vi devo dire? Onestamente la cosa. Ma la Barbie nera, mi ricordo mia sorella piccolina. La teneva, era bellina, insomma, non è che. Perché questa cosa non la vogliono? Questa Barbie nera oggigiorno. C'è uscito il cicciobello nero, il cicciobello giapponese. Insomma, con gli occhi a mandorla. Con gli occhi a mandorla. Che poi questi bambolotti fanno sempre più tale e quale i bambini. Sono terribili. Insomma, a me una fanno cosa veramente a volte una. A me fanno impressione questi bambolotti. Cioè. Sono impressionanti. Poi capito? No? A me mi dà proprio impressione vedere una bambina di 4 anni con un bambino. No, ma come si chiama il suo negozio? Scusate. Walmart. Una grande catena. Ma è lontana assai, perché uno le va a comprare e poi fai regalo. Oppure te le vendi a più. Cioè le rivendiamo, ne andiamo a io avevo pensato ci mettiamo tutti e tre, ci vendiamo queste Barbie nere, uno portiamo una novità, perché comunque non è che si vendano io un consiglio tanto. Le vendiamo a Castelvolturno che lo troviamo sui pullman che cammino a ferrovia Castelvolturno, niente di meno, la CTP ci mettiamo là sopra, a quanto le paghiamo noi? Tutto al più $4, quanto possiamo, diciamo $3 ce le vendiamo a 25, 30, 40 euro. È così. E quanto costa una Barbie? Quella è poco. No, non so quanto costano le Barbie. Abbiamo qualche donna. Io ho smesso di giocare quanto con i giocattoli da anni. Però? Adesso. Intorno ai 20 euro. Adesso mi devi spiegare perché se hai 30 anni tu sai quanto costano le Barbie. Vabbè, non stiamo ha... per diventare tutti zii qui non proprio. Ne ha 30, dai. Non io i giocattoli non ci gioco più. Superati però non giocavo manca che a Barbie. Vabbè, superati i 20-21 anni già. Vabbè, so 30. Però chi di noi non ha spogliato una Barbie? Ah, sicuramente. Mezzo. Cioè, tu hai spogliato una Barbie. Ma io le impiccavo a mia cugina le Barbie. Tu comunque secondo me sono anche alle chine. Anche alle vale metalliche quelle che girano. Tu sei proprio il profilo. Poi la Barbie spogliata è ingannatrice, sì. Perché comunque comunque teneva la mutanda cucita sulla pelle. La mutanda cucita. Comunque tu secondo me sei un profilo da serial killer. Ma non lo so, io solitamente non ho profilo, quindi mi dicono tutti. Tu secondo me sai che facciamo? Qua c'era un applauso. Quello spogliava la Barbie. Poi vedeva che non teneva niente, gli va per i filmetti. Malamente, diceva, ma c'è qualcosa che non trovo. E abbandonò la Barbie. C'è qualcosa che non va tra Barbie in realtà. Esatto. Sì. Andiamo avanti. Torniamo in Italia. Sì. Non parliamo di Barbie, neanche di bambini, ma parliamo di 81enni. Ah. Allora, ci troviamo. Allora, abbiamo un uomo alla guida, 81 anni. Cammina con la sua bella macchina. Non dice il nome, originario di Campobasso, residente a Tivoli, cammina con la sua macchina e la polizia lo ferma. La polizia lo ferma e lo vede in uno strano stato confusionale. È vecchio, 81 un po' anni. Cromato. Sì, un po' cromato, lo vede un po' così. Allora fa e sente uno strano lezzo. Uno strano lezzo e gli fanno un controllo. E vanno a vedere che praticamente il vecchietto stava guidando sotto effetto di sostanze stupefacenti. Marijuana. No, 81 anni. 81 anni. No, allora, però c'è da precisare una cosa. Che è successo? Il vecchietto ha preso la macchina del giovane nipote, quello scapestrato, e voleva una sigaretta. Non aveva finito le sigarette, si gira e trova un misterioso pacchetto di sigarette a fianco al guidatore, no? Si gira, prende questa sigaretta e la fuma. Secondo me un po' se n'è accorto che non era proprio una sigaretta. Però magari gli piaceva pure. Ha fatto l'indiano, oppure lo gnorri come si dice. E lui stava sfumando lo spinello, il classico spinello. Sì, ma Tony, che ne pensiamo di ma io penso spinello? Che ragazzi, allora, oggi Giorgio si dice i giovani d'oggi, ma pure i vecchi d'oggi, i vecchi di oggi. Ma non so più i vecchi. Che poi saranno i vecchissimi di domani. Saranno i vecchissimi di domani. Una 81 anni si mette a se fa per l'amor di Dio. Però viene un po' una volta i nostri nonni con la pipa. E invece mo questa cosa bella che ci ricorda tante cose. Invece oggi si fanno i bomboloni, sei primi. Bravissimo. Un giorno li vedremo, non lo so. A ballà. Non potremmo manco più uscire con una ragazza. Ci fanno la posteggia loro a lei. Questi vecchi che comunque. E i vecchi che vogliono fare i giovani, secondo me, è una delle categorie più brutte che possono della nostra età moderna. Ma poi io quello che non mi spiego io è questo: una persona che fuma, per esempio, un 3, 4, 5, 6 Marlboro al giorno. Si fuma un bombolone così e non se ne addorme. E non se ne bravo. Non se ne accorge. Non se ne accorge, non realizza che è un bombolone. Giustamente se ne accorge il poliziotto. Se ne accorto poliziotto. E lui che la stava fumando non se ne. Secondo me questo è tanto una scusa secondo per me, non dire che l'81enne in verità era un vecchio hippie. Si faceva le canne la prossima volta secondo me non si fa pacchettine merit. E tra l'altro sai che ha fatto? Ha pure colpa al nipote. Magari il vero tossico è lui. È probabile. Proprio il povero nipote dovrà subire qualcosa per colpa del nonnino che vuole farsi una canna. È il solito discorso: giovani d'oggi, giovani d'oggi. Invece molto spesso noi siamo portati a dire i giovani la colpa è degli anziani. I vecchi oggi insomma. Ma stiamo scherzando. Un vecchio che ha 81 anni, io al massimo mio nonno 81 anni si faceva in nascosto pascia all'anno, ma sono una felice che zavo di pigliare per la pressione, si pigliavano una cioccolatina che teneva una, non una cosa del genere, la marijuana 81 anni, non sapeva guidava. Manca che era marijuana insomma, ecco. Lui guidava così strafatto, non manca guidava, preso la fame chimica, poi ha mangiato chili e chili di che cosa mangiano i vecchi? Non lo so, la pastina al semolino, fette biscottate, tornato a casa fette biscottate nel latte a morì. Sì. Quintali. Tra l'altro chissà se è pericoloso per una persona di 81 anni fumare delle droghe psicoattive. Secondo me sì, cioè, se, non lo so, se magari ti prende male. Vabbè, a 81 anni niente ti può prendere male. Una capata storta e si ricorda della guerra. E tipo ammazza uno pensando che è un nazista. Qua ti devi essere fatto proprio la ketamina, però. Però metti che il vecchio la prende storta. Secondo cioè me su nipote dove va a comprare? Dipende, bravo, dipende pure il nipote che cosa ha fumato. Perché mamma poi mia, non si sa mai quello che ti fumi, ricordiamolo. E da un vecchio. Non ci sanno più i. E da un vecchio. Passiamo ad un vecchio tossico, e diciamo. Da un vecchio tossico passiamo ad una donna. Io oggi veramente non riesco a parlare. Sì, parli cioè, come veramente come uno di Castelvolturno. Esatto. Comunque è stata condannata un'educatrice che lavorava per una cooperativa e che aiutava giovani con problemi, sì, diciamo a studiare meglio, quindi a maestri sorta di recupero, a maestri sostegno. Però non in una scuola pubblica, sì, che abusava di uno di loro, di un tredicenne. Ah, che brava educatrice. Di un tredicenne. Brava educatrice. Ed brava. È stata infatti condannata a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Perché aveva avuto rapporti sessuali con un ragazzino di 13 anni. Ci sta. Io sì, direi prendi un fazzoletto perché sei in condizioni terribili. Non ti preoccupare. E può essere purtroppo questo tempo che quello marzo, ci sbalzi così di temperatura. Quelli sono e addirittura la madre del bambino, sì, ha trovato dei messaggi che sporchi non o so, sì, comunque compromettenti. Sì, abbastanza compromettenti. Cioè, e non solo la circuito, in ma più si mandavano i messaggini. Sì, messaggini probabilmente più ti che è d'amore. Piaciuto. Sì. Come gli sì altri che stato l'avevano più lungo di me, chiedeva lui il tredicenne. E comunque il tredicenne è lì per iniziare una carriera da uomo. Sta nella crescenza, diciamo. Però fa curriculum, secondo me, pure il tredicenne potrebbe cominciare a dire. Come prima donna che ha avuto un'educatrice di 30 anni. Non ci esistono neanche più i tredicenni di una volta. Mi viene da dire, non vorrei essere ripetitivo, ma Tony, quando tu come eri a 13 anni? Io come ero a 13 anni c'ho ancora un po' con le scuole. Mi stavo facendo le. Che scuole si fanno a 13 anni? Le medie. Elementari medie. No, le medie. Noi facevamo le elementari a 13 anni. Ho avuto dei problemi, diciamo. Non, c'è anche chi fa elementari. All'epoca mi la maestri sostegno, non c'è, si figura di si può la maestri sostegno. Noi dovevamo aspettare la sera un pochettino, che se ne andavano a dormire tutti quanti per vedere Proibito. Non so se vi ricordate. Sì, Proibito era il canale hard di telecamere. Che diciamo poi tutto così quello che si vedeva alla alla fine era una faccia che faceva, che tu capivi, sudata, che alluccava. E là la fantasia volava. No, che non alluccava, sì, che sentiva una musica e questo sguardo. Musiche bellissime. Poi, per esempio, mi ricordo che uno lo doveva capire, che, ma può essere la fantasia. Che se Steve s'antenna male. No? Poi ci stava un una crisi epilettica. Esattamente. Un programma che mi ricordo pure era Colpo Grosso. Colpo Grosso, però è... Tutto al più era, diciamo, che uno vedeva un po' di un po' di zizze, si può dire, una radio libera. Si può dire, un po' di zizze, ma io aspettavo però la notte che... Col mitico Umberto Smaila. Esattamente. Che pure Umberto Smaila con le zizze. Anche lui ce l'aveva un po'. Sì. La sigla di Colpo Grosso abbiamo la adesso. Sigla, grazie di Cin si chiamava. Era bellissimo. Era un programma che ha fatto io mi ricordo una volta ero piccolino, dovevo andare a bere un poco d'acqua, andai in cucina e trovai mio nonno che soffriva di nascosto. Io mio padre programma. Uguale. No, io aiuma, io non lo so. Era un buon programma. Non è successo niente del genere. Maia, perché tu non andavi in cucina a bere? Secondo te tuo padre non si vedeva col... Tutti si vedono Colpo Grosso. Scusami, ma che l'uomo esce pazzo per esistere. Guardate, un'occhiata ce la dai. Io mo stavo pensando a una cosa. Io sono un poeta. Il poeta è anche molto immaginazione, no? È chiaro. E io mi ricordo che in passato, quando avevamo i nostri 13 anni, noi lavoravamo molto di immaginazione. Compravamo un giornaletto, ci guardavamo, ma quello tutto al più molto spesso non è che si vedeva grandi cose. No, si vedeva appunto una zizza, come ho detto prima. C'era gente che usava il postal market. Esattamente. Per immaginare qualcosa. Oggi questi ragazzi vanno. Ma questo c'era gente, significa che tu usavi il postal market? No, però si sapeva che Scusi Tony. No, ma per l'amor di pure io conoscevo qualcuno pure come no, certamente. Cioè, allora, a quei tempi c'era Teletutto. Teletutto è storico. Teletutto è storico. Quando eri fortunato, Teletutto. Esattamente. Quando eri sfortunato, ricadevi sul postal market sezione intimo. Esatto. E la fantasia volava. Come no? Ma un bambino, se ha internet, ha già visto tutto pure più di me. Esatto, cose che veramente noi non vedevamo, mo si vedono. Su internet e nel computer e trovo veramente un di tutto. Tu trovi in un creatura, un piccolo pampino di 13 bambino anni. Bambino che scrive le male parole sporche sul computer. Perché escono i video sporchi, ma sporchi che è proprio sporchi. Il sesso proprio che si fa. Non signor Tone, lei mi dovrebbe veramente d'accordo. Adesso il bambino ne sa più di un adulto. Sì. Conosce tutte le categorie. Tutte le categorie che ci stanno, che possono essere più o meno... per esempio... Ma non lo so, quelle là. Lei è un po' bianchi e neri. Quelle là. Amore etnico. Tipo la Ringo. Esattamente. Diciamo poi quelle lì, diciamo, delle dimensioni. E rompiamo l'attrezzatura come al solito. Quelle cose proprio fatte quando uno proprio si. Come ve lo devo spiegare? È una parola straniera che quando uno si mette. Lei è un po' timido. Come vi devo dire? Insomma. Vabbè, diciamo che comunque i bambini hanno tante categorie. Quelle sono tutte parole americane. Io non ne capisco assai, perché l'immagine capisco che capisco. Tipo rebus. L'immagine esplicativa, esattamente. Cioè, io a mio padre chiedevo le informazioni sul sesso, ma trovi un bambino di 13 anni che ne sa pure di più, tipo, papà, che cos'è il bucake? L'ho detto io. Padre, giustamente, diventa bianco e non lo sa, va a cercare su internet, sono vado insieme al figlio. Che è una pratica. È una pratica erotica che erotica eccessiva. Consiste nella produzione del seme maschile sul viso della partner. Ah, una cosa romana. Però 10-15 di loro. Non è che è una cosa fatta nell'intimità della coppia. Diciamo che in questo modo noi abbiamo fatto anche una cosa culturale. Sì, certo. I nostri ascoltatori sanno ad oggi poi che cos'è il bucake. Bucake. Chi lo sapeva da prima, abbiamo già capito che tipi siete. Esattamente, siete proprio veramente la... Posso dire, si diceva una volta, la mano del Playmobil. Eccolo. Che ci avete. Si diceva pure mancini di telecomando. Esattamente. Perché c'era pure il video in televisione, dovevi cambiare subito canale, quando mia tuo padre. Ti ricordi? Bravo. Stiamo parlando basta parlare la radio che voglio è questa. Senti, tu hai chiesto e tu hai fatto. Passiamo subito televisione, sempre televisione. Sì. Qua sempre lo stesso livello di qualità. No, siamo me. A livello del bucake. No, qua, secondo me qua siamo proprio peggio da quando vedo, perché bravissimo. Il consiglio di amministrazione della Rai, il CDA della Rai, ha dato il via a un nuovo programma che si chiama Chuck si canta. Tu dirai: "Ah, che bel programma". Peggio Sanremo. Bravo, vuoi sapere chi è che su Re 1 presenterà Chuck si canta? Lo sto immaginando. Un duo eccezionale, i nuovi Gianni Pinotto, Ricky e Janner, Pozzetto e Cochi, Emanuele Filiberto e Pupo. Ah, questo è bello. Il nuovo programma Tony Mondiale ammutolito. Mamma mia, sono veramente allibrisco. Mi sembra giusto. Farà un nuovo programma, tra l'altro dici tu, fanno un nuovo programma cavalcando la notorietà, fanno un altro programma. Invece no, un programma di musica dopo ma secondo me ci deve stare. Allora, io una cosa vedo, che in questi programmi Rai due cose su: o stanno in canzone proprio di tempi antichi, proprio anni 60, 70, sembra la stessa cosa, tipo nada, mischiate tutti però in modo diverso. O un programma nostalgico, tipo i migliori anni della vita, come si chiamava, quello là sembra abbronzato. Carlo Conti. Oppure, per esempio, un concorso e un festival, ma sempre le solite cose. Ma questo... Secondo me faranno un gioco musica e pure i pacchi. Potrebbe essere musica e pacchi, che magari Filiberto li fa benissimo, secondo me. Quello Pupo c'entra in un pacco. Pupo, come? Danno pacchettini ma boro. Pupo c'entra benissimo e poi se lo gioca a poker, come sappiamo. Sicuramente. È un pacco pure Filiberto, come si chiama? Emanuele Filiberto. Un pacco. Ma voi è l'ennesimo pacco. Immaginate una cosa, che se i nostri nonni, no, non avessero votato la Repubblica, noi tenevamo quello come re. Ma c'è. Ma mo lui. Eh sì, per copatere una puttanera che prima o poi andrà a fare la fine che fa. Capito quello? Il mio figlio poteva avere lui come re. Io ringrazio nonno, ma proprio tanto di cappella. Vabbè, ma questo anche come re non vale niente, ma guarda che faccio. Cioè, questo è il re. Meglio Pupo, secondo me, come re. Meglio Pupo come re. Come gli scacchi, il re dello scacchi. Tony, cosa ne pensi di Emanuele Filiberto? E che ne penso di Emanuele Filiberto? Diciamo, io penso che quando qualcuno scava il cascione, perché questo Emanuele Filiberto da che è uscito? Da bello e buono è uscito, mo che vuole cantare, secondo me deve un po'... A ballata, cantare. Ricordiamo. Insomma, deve un po' agguazzare pure lui nella televisione. Questa televisione ogni tanto prende e scava qualche... fare qualche riesumazione di qualche cascione. La cosa brutta è che diamo... che la televisione, soprattutto quella italiana, la Rai, quindi quella di Stato, che noi paghiamo, da spazio a questi personaggi per fare programmi di qualità, tanta qualità musicale soprattutto. Io comunque non vedo l'ora, proprio la salivazione a palla. Non è meglio una rete privata a questo punto? Dico, un bello film di Mario Merola, un bello film di Nino D'Angelo, che uno vede. Sinceramente, fra Emanuele Filiberto e Mario Merola, tutta la vita. Non c'è paragone. A me non mi faccio una risata. C'è proprio paragone. E comunque cantava meglio. Sicuramente cantava meglio. Ma non c'è paragone. Secondo me, io non vedo l'ora di vederlo, perché poi tutto questo casino alla Rai hanno detto: ah, che brutto, che l'orchestra ha fischiato, non è una cosa che si fa. Ho sentito. E voi che fate? Votate il consiglio, si vota per un programma a Pupo e... Ah, beh, levano l'orchestra. Mettono solo a Pupo e... Mettono i dischi. Alberto. Mettono due dischi, mettono. E mettono sempre però il canzone del Cippa Forcella. Sì, con tanti cantanti bravi che esistono in Italia, che comunque ci stanno. Speriamo più che altro che non cantino canzoni proprie, perché vabbè. Ma noi Filiberto può cantare solo una. Sì, poi per esempio pensiamo una cosa, scusate se vi spezzo parole per quanto vi voglio prego, bene. Prego. Ma non invitano mai un poeta in questi programmi. Si potrebbe invitare un poeta. Sanno tanti poeti, mica solo io sono l'unico. No, assolutamente. Quindi si più poesia fare in televisione. È che la poesia non tira. La poesia non tira, purtroppo. E che dobbiamo lei fare? Lei che fa il poeta. Sì, signore. Poeta e chiavico. Ecco, vi posso anche spiegare perché questa cosa. Prego. Se siete curiosi. Perché diciamo, io a me mi piace definirmi per i miei fans un poeta e chiavico. Perché? Perché? Perché vi ricordate quando uno era piccolo all'epoca, tanti anni fa, che eravamo piccoli? Tu da grande che vuoi fare? No, lo scienziato, l'ingegnere spaziale, l'uomo spaziale. Un amico l'uomo mio spaziale, che dice: io voglio fare l'uomo spaziale. Ed essere ricoverato all'ASL di Napoli. No, ma l'uomo spaziale, che cos'è? Non esiste. È una persona spaziale. No, non credo che sia l'appellativo, credo che sia un mestiere. Sarà l'astronauta. Io l'avevo pensato pure io. Che cosa gli hai detto a questo tuo amico? Non mi ricordo, è passato troppo tempo. Però comunque una volta voleva fare tante cose belle di queste qua. Calciatore, bravo, esattamente. Il medico. Poi alla fine uno poi le cose della vita si trovava a fare l'impiegato, senza togliere un'ora estiva, perché chi lavora, per carità, per amore di Dio. Però facevo una cosa normale. Io invece parto già, voglio fare una cosa straordinaria che fanno pochi, il poeta, però anche una cosa che sono tutti. il chiavico. È giusto, e quindi poete chiavico, una definizione. Forse che... un po' chiavici li siamo anche noi. Siamo sì, tutti, come, senza offesa che vi voglio bene, siete un po' chiavichi. Siete una chiavica. Chiavichi, io non ho saputo chiavichi. Dire chiavichi. Alessio, sei un chiavico. Ma non c'è male. Non c'è male. Mi fa piacere. È meglio questo che una cosa. Meglio questo che un'altra cosa, una malattia. Bravo. No? È meglio essere chiavico. Meglio sempre la salute. Chiavico con la salute si può campare. Esatto. Si può campare. Allora, si campano, campano tutti si chiavi, che non potete campare voi dottore. Andiamo avanti. Allora, la notizia è, secondo me, molto interessante. Una novità nelle nostre scuole italiane, sì. E io vorrei che si espandesse sicuramente. Praticamente a Roma, al liceo scientifico Keplero, è stato inaugurato il primo distributore di condom al liceo. Ah, ecco di qua, amore sicuro. Amore sicuro nei licei, secondo me è un'ottima iniziativa, perché comunque usare il preservativo è fondamentale. Tu cosa sì, ne pensi adesso? Sì, assolutamente. Cosa ne pensi? Assolutamente, è chiaro. Cioè, nei giorni d'oggi, soprattutto nei licei, è importante che il sesso si faccia in maniera sicura, sia per malattie sì, e anche sia per non avere l'effetto indesiderato, le gravidanze inaspettate, che sono una cosa... brutta che può accadere a un ragazzo. Complicata da gestire. Complicata. A quell'età. Quindi secondo me è una cosa ottima. La cosa bella è che è stato messo questo distributore di condom. E il Vaticano, come sì, al solito, secondo me, con un'uscita secondo me brutta, non sì, il massimo, è contraria. Dice che è contraria perché non va bene, perché si porta alla promiscuità. Cioè il distributore di condom. Ma parlano difficile però questo. I prieti parlano difficile e piano. Tutti i prieti. È vero. È perché sanno, non lo so. È proprio, sono addestrati così. Ah, sono in pace. Grazie a Dio. Tanto loro è su prieti. Però devono dire che. Giustamente. E devono sì, dire no, no, perché condom sviluppa la promiscuità. Come se due ragazzi si incontrano nel bagno, si guardano. Capito, si guarda... Vedono il distributore e cominciano lo a fare sesso sfrenato. Lo prendono poi nel bagno dei maschi. Ci vogliono prima gli spicci. Se uno non ce l'ha, come fa? Ma comunque un invito a cena, un cinemino, no, qualcosa del il genere. Il corteggiamento è sempre fondamentale. Ricordiamo che il corteggiamento sempre, è una cosa che sta scomparendo, è importante. È un peccato questa cosa, perché poi se uno va a vedere i sondaggi, le interviste, alle ragazze piace essere corteggiate. È il romanticismo. Per esempio, qua viene in aiuto una poesia. Una poesia ah, può no, essere anche sempre una sì, cosa per corteggiare. Tra un po' iniziamo a leggerle anche per dare un po' di spazio. Sì, mi fate molto onore. No, perché abbiamo fatto lo spazio delle notizie, poi adesso che lei ci ha aiutato a commentare, però adesso lei faremo... Tony, vabbè, scusami. Sì. Tu, Tony, adesso invece parleremo di te, perché giustamente i spettatori, gli ascoltatori hanno il diritto di sapere Cucchiana chi è. Cucchiana che fa. Ormai noi ci hanno... si sono imparati chi siamo, quindi certo. Non hanno dubbi. Comunque io sono d'accordissimo e spero che in più licei si mettano questi è una cosa buona che i ragazzi alla fine i ragazzi passano tutto il loro tempo a scuola, insomma. È buono che imparano queste cose, che ma ci sì, vuole sempre prima il cappellino. Sempre. Perché è importantissimo. È cioè... una cosa basilare, perché comunque, sa diciamo da sagueto. I preservativi non stimolano l'erezione, senza dubbio. Quindi, non è che io vedo la scala dei preservativi e ho voglia di fare sesso. No, ma amore Dio. Viene posto, ho voglia di fare sesso. Quindi andiamo a comprare un attimo prima, è così che si dovrebbe così, essere sempre così, sempre prima così, il dovere e poi il piacere, certo, è sempre così. Questa è bella, questa potrebbe essere la prossima pubblicità di qualche scatola di presenti, no, intanto questi ce la rubano subito, sì, no? Ma è una cosa vecchia come frase, tra l'altro prevenire è meglio che curare, un'altra prevenire di quella è meglio che curare, certo. Però quella è già di dentisti, preservativi con Gardol pure è vecchio. Vabbè, diciamo che le notizie di oggi sono finite e incominciamo a parlare con il nostro Tony. Certo, sì. Allora vogliamo leggere qualche poesia? Dai, rompiamo il ghiaccio con qualche poesia. Non so, questa è l'ultima. Ma io diciamo che il mio rapporto con la poesia è un rapporto molto carnale, molto viscerale. La poesia io me la sento in corpo e quindi e quando nasce? Tu ti senti in corpo una cosa, poi la cacci. Per forza. E come nasce? Come nasce la poesia? La mia poesia nasce, diciamo, da un pensiero, da un'emozione, da una cosa che io voglio comunicare. La poesia nasce da tutto, anche dalle piccole cose che possono succedere. Sì, infatti quando a me uno mi dice no, ma tu la poesia, questa poesia è triste, sti poeti parlano sempre che chiagnano, pur se solo poesia è bella, è d'amore, però c'è sempre un po' di tristezza. Io dico che non è vero, perché la poesia nasce da tutto, anche da un piccolo, una cosa che ti è successa, una cosa quotidiana, questa è una cosa giusta, nasce, può diventare un momento di poesia. Sì. E tutto assume un'altra. Io so infatti che ce n'è una che sì, ho letto anche sopra sia perché mi sono informato. Sei gentilissimo. Di, ce n'è una proprio che rispecchia questa sua idea. Nel senso, la realtà è poesia, può essere poesia. Certamente. E vorrei che lei mi leggesse questa poesia che si intitola... Questa poesia è... Ah, questa sì, questa è un piccolo mistero irrisolto. Eh sì, perché... capitano purtroppo nella vita di condominio tante cose. La vita di condominio è una vita dura. La vita di condominio è una vita dura. Io posso capire chi piglia e se va a fare una villa. Lo so, perché purtroppo devi avere a che fare con... Ad averci soldi. Con tante persone che non tutti hanno quel minimo di educazione che ci fa stare in grazia di Dio. E succedono le tipiche cose dei condomini. Avete spazio i pan, l'acqua, vostra figlia quando scende. E l'immondizia. E i tacchi. E i tacchi. Sette mattine che uscite con i tacchi, insomma, stanno i lavori. Questa cosa qui invece io è nata in occasione una domenica mattina, capito? Sì. Immaginate una domenica mattina, uno apre la giornata così con questa cosa, trovai una pisciata di cane fuori alla porta. Urinata di cane fuori. Una urinata di cane fuori alla porta. E questo fu, dopo tutto quello che vi racconterò in questa poesia, che mi vennero questi versi. Che se l'ispirazione grazie a una pisciata. Esatto. Prego. A posto, spazio, quando uno dice, prego, prego. Questo spazio è solo suo. Vi ringrazio. Una pisciata di cane fuori alla porta di casa è un bel mistero. Che niente niente te prende un giorno intero. Ma nel palazzo solo tre persone hanno il cane. È un indizio. Li bussa a tutti e tre a sti zinger e mi levo lo sfizio. Ma no, ma io, ma no, ma io non sono stato. La pisciazza non è del mio. Io lo porto legato. Ma no, ma per l'amor di Dio, io queste cose non le faccio. Se il cane mio pisciava... No, aspettate, ho sbagliato. Prego, quando prego. Lo porto a pisciare, il cane mio lo tengo in braccio. No, no, ma figuriamoci se capitava proprio a me. Se il cane mio pisciava, ero io che ti bussavo a te. Ecco che il mistero ambressa ambressa si infittisce. Che cazzo che si chiama il nero di CSI. Voi lo sapete il nero di CSI? Sì, sì, famosissimo. Nemmanco ci capisce. Quello di Sherlock Holmes ci scrivesse un giallo. La storia mai raccontata di tre cani nel palazzo, la pisciazza in terra, ma nessuno capisciava. Ma qua non siamo dentro un libro, questa è la realtà. A questi signori del cazzo con la lingua e facesse puluzzà. Che mo è moda, mo è cosa scicca assai a se piglio caniel. Quando poi proprio loro non sapessero campà, manchi in da saitella. Ecco. Sai che farò? Sai che farò? Dica. Un giorno di questi. A uno di tutti e tre ci preparo un bel piattino che meglio non ce l'è. Ci faccio una bella cacata fuori alla porta e mi levo lo sfizio. Tanti il buco del culo, fino a prova contraria. Lo teniamo tutti quanti, non c'è indizio. Alla fine si è capito, la pisciazza la tolgo da me. Ma la morale di questa storia, tutte e due, volete sapere qual è? Assolutamente. Che la gente, piuttosto che dirti, è la verità. Hai ragione tu. Si facesse sfondare il mazzo in diretta TV. E che in questo piccolo mistero, almeno, ho una certezza. Nel mio palazzo abita la gente di Munnezza. Bravissimo, bravissimo. Bellissima. Gentilissimi, vi ringrazio. Bellissimo. Vi ringrazio. Guarda, io quando sento questo pesio comunque mi sento... Io lo voglio sempre paragonarlo a Salvatore Di Giacomo. No, per quando vi voglio bene. No, però è moderno, modernizzato. Però sta prendendo, sta prendendo uno spiraglio. Perché lei trasforma la realtà di Napoli, soprattutto perché comunque il suo repertorio è molto legato a Napoli. Napoli. Sì, sì, sì. Io ho scritto anche poesie dedicate ai nostri giocatori. Perché lei è un grande tifoso del Napoli, ricordiamolo. Sembra, leggiamone qualcuno. Io vi posso citare una persona importante di una volta. Certo. Pasolini si chiamava. Sì. Diceva che il calcio ha dei momenti di poesia, come il dribbling, come... Pienamente d'accordo. Il gol particolare, bello. La perlizia in mezzo al campo del giocatore. E quindi ci sono dei momenti della partita di pallone che comunque coinvolge tante persone a casa e allo stadio, un momento di gioia di tutti che va cantato. Io ho sentito di cantare con dei versi, diciamo, che mi hanno ispirato soprattutto in questi ultimi frangenti del campionato, che questo Napoli pare che ha avuto un momento di rinascita. Il Napoli, per sì, esempio, ha avuto la rinascita. Io ho scritto una poesia dedicata a Denis. German Dennis, detto il tank, esattamente, che è stato uno dei giocatori che grazie all'arrivo di mister Mazzarri è quello che ha avuto è rinato certamente, perché si può dire che oggi nelle ultime partite è quello è che si è distinto meglio, è più in forma. Diciamo che prima era un oggetto misterioso. Con Donadoni. Sì, invece Mazzarri, che è uno strategico, Mazzarri. Grande. Grande, posso dire una parola, uno spaccimma pure, è un gran motivatore, cioè, sa, fa, non insomma. C'è traduzione per questo termine, no, ed è giusto è così un termine, sì. E quindi questo Denis, ho sentito di dedicare una poesia, un ode a Denis. E allora, sentiamo. Come prima, spazio per lei. Grazie. Tu, che già tipo 3 o 4 volte hai segnato così, librandoti leggiadro e lieve nell'aere, zompando a uso scigna ma con la grazia, la coordinazione, cos di un'aquila e la cazzimma infame di un tornado impicchiata, implacabile, stai come la spada. Non ci sta niente da fare, non vuoi sapere niente. Quando il tuo capo lambisce la sfera o il loco, stretti nella morsa di una dolce sofferenza che solo il magico ci regala, trepidanti nell'attesa di un'impetuosa esplosione di gioia, noi già sappiamo che la rizza si gonfia e che hai fatto un ricco gol. Che bellezza! Tu, attaccante di pietto e presenza, un curazziere, un gendarmeri, quando stai in area di rigore non guardi in faccia a nessuno. E fai bene, Denis, non guardare in faccia a nessuno. Guarda soltanto avanti, ferrigno più che mai, e trascina il magico Napoli verso trionfi e gloria. Bravissimo, bravissimo. Grazie, grazie. Forza Napoli. Sempre, sempre. Mi nasce dal cuore. Sempre. Ma quando sabato è dura, sabato sera. Gioca sabato sera. Non lo sapeva? No, non lo sapevo. Che bella figura che mi ha fatto. Tifoso del Napoli, sabato sera. Sabato sera, sabato Napoli sera. Fiorentina. Questo sì, con la Fiorentina lo sapevo. Tra l'altro, bella incazzata la Fiorentina. È una Fiorentina che viene fuori dall'uscita dalla Champions. Non ha più obiettivi, soltanto quello di salire. Soltanto quello c'è un brusaciccia a noi, diciamocelo con franchezza. Mi sembra giusto. Bisogna resistere. Va bene, mi è piaciuto moltissimo, sicuramente lo rinviteremo perché... No, assolutamente, siete carnali. Poi è piacevole anche come compagnia, capito? Poi mi piace il napoletano, che secondo me andrebbe parlato più spesso. Ma voi non sembrate molto napoletano, infatti devo dire questo accento vostro... Me lo dicono in molti. Siete un po' dei parenti di fuori. No, tutti napoletani. No, tutti napoletani. Tutti napoletani da sempre. Fuori Grotta e Vomero. Ah. Qua con Via Consalvo. Secondo me un po' di quello del Vomero che quelle origini del Vomero non fa sentire un po' con l'accento, secondo me. Io sono napoletanissimo, forza Napoli, sempre. E mi fa piacere proprio che si parli questo napoletano, che quando parlato da gente per bene è proprio bello. Mi lusingate, la faccia mia sotto i piedi no, vostri. No, già. Nel senso, quando sentiamo napoletano in quelle televisioni un po' trash così, è terribile, roba da mettersi un po' scuorno. Quello non è, quello è proprio... Ma quando lo senti parlato da persone serie è bellissimo, come quando lo parlava Massimo Troisi. Il napoletano era bellissimo. Voi mi state veramente riempiendo di paragoni troppo grandi per me. Ma noi siamo... Questa è stima nostra, siamo dei fan. E io vi voglio bene, siete quello che siete carnali, perché la stima dei fan è la carnalità del fan, del cuore che c'ha verso l'artista. Poi questa radio ha bisogno di personaggi culturalmente elevati. Questa radio è già considerata moda. Ecco, questa cosa io veramente, sapevo un sacco di gente che si sentiva nelle radio, quelle là mandavano un bacione, no, sentono Radio 2010. Gente che s'hanno accattato il computer solo per ascoltare Radio 2010. Mamma, ascolta Radio 2010, e poi ci fa capire podcast o Tunz che c'è voluto, però mamma ascolta Radio 2010. Però che emozione ascoltarla oggi. Assolutamente, starà proprio col cuore in mano. Qualche volta però c'è una richiesta, volete mettere 2 canzoni di tempo su, Claudio Baglioni, una cosa. Va bene. La posta te la salutiamo sicuramente. Va bene, grazie. Ora che sappiamo questa cosa, la puntata giunge al termine. Assolutamente. Come assolutamente? No, assolutamente, nel senso che no, si porta assolutamente. Mi è sfuggito. L'ho colto in fallo, dica. Prima che chiudete. Sì. Vorrei salutare voi e il pubblico con una poesia. Sì. Ah, prego, come no. A volo che mi viene. A volo. Io sono poeta, ma se lo faccio bene non lo so. Parlare però non è arta mia, sicuro no. Ma ringrazio voi che mi avete dato l'occasione, cari Strazzullo, Parisi, Cremona. Grandissimo. Ho la lacrima, emozione. Toni, sicuramente ci rivedremo. Chiusura di questa? Cioè, ricordiamo, grazie, noi ci rivediamo sicuramente la prossima volta. Quindi onore e piacere. Anche nostro, soprattutto nostro. Chiudiamo dicendo dando le nostre coordinate. Certamente. Chi vuole sentire la puntata, andate su radio2010.com. Ci seguite lì o anche aggiungeteci su Facebook. Anche su Facebook ci siamo, Radio 2010. Mi raccomando, commentate, perché se voi mettete qualcosa, state sicuri, noi ne parliamo. Cioè, non c'è dubbio, potete scrivere. Ancora, assolutamente. È un vizio ormai, devo liberarmi. Voi potete scrivere le più cretinate le cretinate più assurde. Non ne parleremo, state sicuri, quindi sbizzarritevi. Se dici così sembra che siamo rovinati. No, beh, poi più o meno, dire. Più sì, meno. Più o meno. Una piccola censura ci sarà, però mi fido dei nostri ascoltatori. Niente, quindi chiudiamo. Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Salutiamo il nostro DJ. Ciao DJ. Buonasera. Siate curiosi, Radio 2010. Salutiamo Fabio Milano in regia. Ciao Fabio Milano. Ciao Fabio. Salutiamo Fabio Milano. Radio 2010, siate curiosi. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio, ciao. 10